Martedì 29 novembre al Teatro Duse andrà in scena lo spettacolo Quanto resta della notte, recital di parole, versi e suoni in cerca di un giorno nuovo, spettacolo teatrale di e con Niki Vendola, e noi siamo qui per parlarne proprio con lui, quindi ti do il benvenuto Niki ai microfoni di Radio Città Fujiko. Grazie, grazie molto di questa occasione, diciamo, di presentazione di una cosa abbastanza eccentrica, no? Per me che sono stato frequentatore di palco, frequentare il palcoscenico è forse una bella evoluzione. Esatto, è un bel cambiamento, direi. Fondamentalmente perché le parole della vita pubblica ora producono un discreto inquinamento acustico, sono cacofoniche, spesso sono volgari, sono una specie di pancera che aderisce elasticamente all'italietta del basso ventre, no? Le parole della politica, i programmi elettorali, le campagne elettorali permanenti involgariscono molto la discussione su come stiamo, su come sta il pianeta, su come sta l'Europa, su come sta l'Italia. Tutto diventa insulti, ricerca di capri espiatori, di nemici e degli abracadabra per aprire le porte del futuro. Non c'è una discussione seria. Le parole sono diventate un po' mafiose, cioè sono parole svuotate di significato, svuotate di senso. Ecco, siccome per me il teatro è un luogo sacro, portare le parole, e non solo le parole, le immagini, lo dico non per farmi pubblicità, ma le immagini straordinarie dei video artistici di Mario Amura che intervallano i miei monologhi, portarle in teatro significa provare a dare corpo, anima, senso alle parole. Hai nominato anche dei video e infatti lo spettacolo coniuga poesia, temi di attualità attraverso, oltre alle letture, anche video e musica. E ti chiedo come mai hai scelto proprio di portare in scena tutte queste modalità di racconto e tutti questi temi, se c'è magari un filo conduttore attraverso questi temi. Guarda, lo spettacolo è una specie di viaggio. È il viaggio di una persona che si perde. È come nella celebre pagina della Bibbia. C'è un viandante sconosciuto, misterioso, che si perde, che forse è disorientato e che chiede alla sentinella che sta sulle mura della città: sentinella, a che punto è la notte? Quanto resta della notte? Isaia, no? Ed è un'espressione celebre perché fu ripresa in uno scritto meraviglioso di Dossetti contro i rischi di deriva autoritaria della democrazia italiana, no? Quindi quanto resta della notte? Allora, in questo viaggio io attraverso le notti della disumanità, che sono la guerra, il razzismo, la pandemia, il femminicidio, che sono le notti anche private della morte, della perdita, del congedo degli affetti più cari, e poi la tortura come elemento che bagna, io dico, come un'ombra disumana, la storia umana, no? La tortura non solo quelle che praticano i paesi rinascimentali, diciamo così, l'Arabia Saudita o altri, le torture che praticano tutti i regimi totalitari o autocratici, ma la tortura che abbiamo visto in qualche modo tornare in molte cronache angoscianti anche in Italia, dal G8 di Genova, alla caserma di Bolzaneto nella scuola Diaz, fino alla carcere di Santa Maria Capua Vetere e altre vicende. Allora, io attraverso la notte della disumanità, della assuefazione al male, alla banalità del male, per dirla con Hannah Arendt, e poi alla fine incontro due luci che sono le mie, diciamo, è la mia alba. L'alba è per me il sud come luogo della poesia e come lente di ingrandimento per capire i problemi del sistema paese, il sud che lega il Mediterraneo all'Europa, ma il sud dei paeselli incantati, di questo paesaggio naturale e urbano che è veramente magico, e poi l'amore non l'amore in astratto, ma l'amore come libertà dei propri sentimenti. Celebro il Pride, celebro alla fine proprio la vicenda che ha consentito a una parte dell'umanità di uscire dalle caverne, di uscire dai ghetti, dalle prigioni, di uscire dai manicomi dove le terapie riparative contemplavano l'elettroshock per un gay, è di rivoluzionare i costumi nel mondo. Ecco, penso che siano tutti temi che incrociano l'attualità e che io provo a raccontare senza mai smarrire il filo di una riflessione anche letteraria, anche filosofica, ma incrociando momenti analoghi in questi video, in queste fotografie, in questa tecnica della stop motion, delle foto che diventano animazione, di questo grande personaggio, grande intellettuale napoletano che è Mario Amura. E sono veramente momenti forti. Io ho fatto lunedì scorso la rappresentazione al Teatro Parioli di Roma con un bel pubblico, e c'è stato proprio una connessione così emotiva, così forte col pubblico, che insomma ha segnato un successo di uno spettacolo che un po' in giro per l'Italia mi sta dando forza e soddisfazione. Quindi è la storia di un bel viaggio che parte da tutta l'umanità, insomma, e finisce con la tua storia personale. Lo ripetiamo, Quanto resta della notte, recital di parole, versi e suoni in cerca di un giorno nuovo, al Teatro Duse, martedì 29 novembre alle ore 21. Io ti ringrazio per queste bellissime parole. Sono io che ringrazio te e voi moltissimo. Spero di vedervi in teatro. Lo speriamo, invitiamo chi ci legge, chi ci ascolta a venire al teatro a vederti, insomma. Ciao. Ciao, grazie.